stato un anno in America, lontano da qui, e son tornato che nevica e non si trova un taxi. Entro in un negozio, la commessa ed il commesso sono lì davanti a me. Io li guardo e gli dico: scusate, ci avete mica un ombrello, per favore? Ma voi due non siete mica quei due che vi siete conosciuti in farmacia? Sì, che vi siete inseguiti fino al crocevia. Dai, poi vi scambiavate le occhiate lì alla fermata del tram. Sì, siete voi, ma come è andato a finire poi? Vi siete sposati oppure no? Mi hanno risposto di sì, sì, sì, sì, sì, sì. Franco, se tornasse Gioele, gli devi dire che qui, quando hanno sentito che questa storia d'amore di quei due in farmacia è finita così bene, hanno battuto tutti le mani. Domani? No, le domani. Hanno battuto tutti le mani. Domani.